GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buona domenica da Rita Micoli. In questa edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia parleremo dei progetti per l'area ex Italcementi di Trieste e poi di quello per realizzare parchi fotovoltaici lungo le autostrade. In sommario anche una nuova mostra che lancia la candidatura di Pordenone a capitale italiana della cultura. Infine lo sport con l'attesa per la trasferta dell'Udinese domani a Firenze. Crolla l'ultima torre dell'Italcementi a Trieste. Sul sito industriale sorgerà un palo del freddo al servizio della logistica portuale. L'ultima ciminiera di un impianto produttivo di Trieste è caduta quando le 11 erano passate da un minuto. Il camino rosso, alto oltre 70 metri, che faceva parte del complesso dell'ex Italcementi di via Caboto, è stato fatto brillare con microcariche di esplosivo. Dopo le tre canoniche sirene di avvertimento, un boato secco ha accompagnato l'esplosione e la ciminiera si è afflosciata su se stessa sotto lo sguardo distanziato e curioso di una ventina di cittadini e di alcuni agenti delle forze dell'ordine. Per favorire l'abbattimento sono stati chiusi gli accessi alla tangenziale nel tratto tra Valmaura e via Flavia e un tratto di via Caboto, ma senza impatti particolari sul traffico perché l'area di sicurezza ricadeva tutta all'interno dell'ex stabilimento industriale. Il cementificio aveva aperto nel 1954 per cessare l'attività dopo 60 anni nel 2014. Pochi anni dopo fu smantellata anche la storica teleferica che trasportava il calcare estratto a San Giuseppe sul Carso fino al cementificio. Il 95% delle strutture dell'area industriale, dal 2021 di proprietà di due imprenditori veneziani, risulta ora abbattuta. Mancano solo i tre silos situati vicino alla ciminiera. Per il futuro, il complesso da 175.000 metri quadrati dovrebbe diventare un'area di servizio, o per il porto e il nuovo polo del freddo sul canale navigabile, o per il polo dell'energia, che oltre al termovalorizzatore comprenderà il previsto impianto all'idrogeno. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un parco fotovoltaico in ambito autostradale per migliorare la sostenibilità ambientale della società e generare risparmi. È il progetto cui sta lavorando Autostrade Alto Adriatico. L'ultimo CDA ha dato mandato per l'avvio dell'iter per uno studio di fattibilità. Negli ultimi anni la concessionaria ha ridotto il consumo di energia del 10% in 5 anni, nonostante la realizzazione di opere della terza corsia in A4 e l'aumento conseguente dei punti di consegna di energia. Autostrade Alto Adriatico ha attuato un'operazione di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione autostradali, incrementando anche l'autoproduzione di energia rinnovabile da fotovoltaico. Molte le aree in cui per la società potrebbero essere sviluppati nuovi impianti fotovoltaici sfruttando suolo nelle fasce di rispetto autostradale o nelle aree interne di svincoli e raccordi. Progetto in linea con il disegno di legge aree idonee del Friuli Venezia Giulia, lo definisce l'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro, che evita il consumo per il fotovoltaico di altri terreni più pregiati come quelli agricoli e che si inserisce tra le azioni virtuose del nuovo piano energetico regionale. La cronaca, due furti in casa ieri a Tavagnacco e Martignacco, su cui stanno indagando i carabinieri di Udine, il primo in un'abitazione di via Galilei a Tavagnacco, dove la proprietaria, rientrando in casa intorno alle 13, ha trovato segni di effrazione e denunciato il furto di gioielli per 15.000 euro. Bottino quasi altrettanto cospicuo per il colpo messo a segno nel pomeriggio in una casa di via Cividina a Martignacco, dove un uomo rientrato verso le 19 anche qui denunciato la sottrazione di gioielli e contanti per 14.000 euro. Dopo la mostra dedicata a Italo Zanier è stata inaugurata in Galleria Rebertoia a Pordenone anche la nuova esposizione Gli Italiani di Bruno Barbet, fotografo francese dell'agenzia Magnum. Le due mostre sono visitabili da oggi fino al 4 maggio e lanciano la candidatura della città capitale italiana della cultura 2027. Sentiamo il curatore Marco Minuz. È uno dei grandi fotografi francesi, membro dell'agenzia fotografica Magnum Photos, e per la prima volta in Italia esponiamo questo progetto, un percorso compreso fra il 1962 e il 1966, dove ritrae il nostro bel paese in trasformazione, sono gli anni dove arriva il boom economico. Con queste due mostre inizia la stagione dedicata alla fotografia, che dà avvio al percorso di attività pro candidatura 2027 Pordenone. Città italiana della cultura. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Racconta il rapporto dell'intellettuale e regista friulano Pierpaolo Pasolini con il nuovo continente, la mostra Pasolini America Warhol, inaugurata questa mattina a Casarsa. Si tratta di un'ampia panoramica sulle riflessioni che Pasolini condusse intorno a numerosi aspetti delle realtà d'oltreoceano, dal conflitto in Vietnam al neocapitalismo. La mostra è allestita al Centro Studi Pasolini e si potrà visitare fino al 23 febbraio. E la coppia comica formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, la protagonista di Delirio a due, scherzo teatrale firmato dal drammaturgo di origine rumena Ionescu a Trieste al Teatro Bobbio alle 20:30. E i grandi classici del cinema di animazione, dagli Aristogatti fino a Re Leone e Aladdin, protagonisti dello show musicale Disneyamo, sul palco del Verdi di Gorizia alle 17:00, il principale doppiatore di cartoni animati in Italia, Pietro Ubaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, con offerta libera all'associazione Scricciolo, che realizza interventi di sostegno morale, materiale e psicologico per famiglie di neonati ricoverati. Ora il meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 7,5 gradi, a Udine Pordenone 5 gradi, a Gorizia 3,5, a Forni di Sopra 0, a Tarvisio e Tolmezzo meno 1 grado, sul Piancavallo meno 3,5 gradi, a Sappada meno 5,5 decimi, sul Monte Lussari meno 7 gradi, sullo Zoncolan meno 8, sulla Costa Grado 7 gradi, Lignano 4,5. Le previsioni dell'ARPA: oggi dal pomeriggio cielo coperto con deboli precipitazioni sparse che saranno più frequenti e consistenti in serata e sulla fascia orientale, specie verso Trieste, dove saranno abbondanti. Sulla zona montana, oltre che a qualche spruzzata di neve, oltre i 300-400 metri sarà possibile ghiaccio al suolo, in tarda sera possibile neve anche sulle zone più alte del Carso. Domani cielo da poco nuvoloso a variabile, in genere per nubi ad alta quota. Ora lo sport, partiamo dal calcio. Nel massimo campionato domani l'Udinese sarà impegnata al Franchi contro la Fiorentina nel posticipo delle 18:30. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore Kostas Runjajić nella conferenza stampa pretrasferta. Lunedì affronteremo di nuovo una squadra di alto livello, una squadra con grandi qualità, in particolar modo per quanto riguarda la fase offensiva. La Fiorentina è una squadra in grado di mettere sul campo una grande intensità, pressare alto. Abbiamo giocato contro Napoli, contro l'Inter, abbiamo fornito delle prestazioni molto intense. Io credo che per alcuni tratti della partita abbiamo avuto appunto delle buone fasi di gioco. Ovviamente abbiamo avuto dei momenti più critici e su questo dobbiamo lavorare, dobbiamo ridurre la quantità di fasi della partita dove commettiamo degli errori. Alexis Sanchez sa bene che è fondamentale nel calcio essere un assoluto buonissimo stato di forma. Al momento ovviamente non è al 100%. Per recuperare l'ottimale stato di forma ha bisogno di minuti di giocare, di allenarsi in maniera intensa. Per noi è un giocatore molto importante. Lovric si è allenato con il gruppo più piccolo, sente ancora un piccolo fastidio e valuteremo qual è la soluzione migliore per lui e per noi. Quindi non è ancora sicuro al 100% che ci sarà. Sostegno concreto alla Fondazione Burlo Garofalo dalla Bavisella di Natale, corsa non competitiva, all'insegna della beneficenza a Trieste. Sentiamo. Più di 800 corridori per una buona causa. Torna la Bavisella di Natale organizzata da Miramar e Trieste Atletica, che ha raccolto fondi per i bambini del Burlo. L'obiettivo raggiunto era donare all'istituto una slitta per portare i bambini con problemi motori sulla neve nei prossimi mesi. La corsa a 5 chilometri non competitivi dal centro a Campielisi e ritorno, che qualcuno ha corso in pigiama e in molti con il tradizionale cappello da Babbo Natale, è partita poco dopo le 10 10 in ritardo a causa dell'altissima affluenza nonostante le temperature tutt'altro che miti. Tanti i bambini. Un gesto di solidarietà ma anche di salute e prevenzione in vista dei bagordi a tavola nei giorni di festa per l'ultimo evento dell'anno con la speciale presenza di Babbo Natale. Correre fa bene allo spirito, ha detto il presidente della Fondazione Burlo, Gabriele Conte. Tante iniziative legate al mondo dello sport consentono ai bambini dell'ospedale di vivere giorni più sereni, soprattutto in concomitanza delle festività. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Federico Comare, Caterina Cabrelli. In redazione hanno collaborato Samantha Gone e Cristina Polselli. Da Rita Micoli grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.